Questa domanda mi è sorta quando, un giorno, sono stato invitato da alcuni giovani a mangiare una pizza con loro. Avevano scelto un locale super affollato, l'aria era appena respirabile, tanto era inquinata dal fumo. L'orchestra, ad 1 metro dal nostro tavolo, unita alle voci di circa 300 persone, rendeva necessario urlare per potersi capire. Mi resi conto che quella era la normalità per certi figli di Dio. Essi vivevano infatti felicemente quella situazione, come la più naturale e consueta della loro esistenza. Io, avendo vissuto una vita totalmente diversa, fin dal primo giorno della mia conversione, impegni di chiesa, visite pastorali, predicazioni ed evangelizzazione, mi sono chiesto perché questa non è la mia vita normale, anche se non ci fosse nulla di sbagliato, perché il mio tempo io lo gestisco diversamente. Cosa mi spinge a dedicarmi al regno di Dio? Perché, in ultima analisi, servire Dio? Così, in quel locale affollatissimo, rumoroso, inteso a rendermi una serata di svago, ho chiesto al mio cuore di razionalizzare i motivi per i quali oggi servo Dio. Nella mia mente ho quindi sintetizzato 3 ragioni fondamentali. Libri. 3. 1. Servo Dio per interesse. 2. Servo Dio perché lo amo. 3. Servo Dio perché amo il prossimo. 4. Servo Dio per lasciare un'eredità duratura. Prendiamo in esame ogni aspetto. 1. Servo Dio per interesse. L'interesse, visto come guadagno o vantaggio, è, in fondo, il vero motivo di ogni nostra decisione. Nessuno fa nulla senza questo istinto, datoci da Dio. Adamo ed Eva mangiarono del frutto proibito. Per trarne un vantaggio, essi volevano diventare come Dio. Mangiare e bere è una necessità. Ma, non rientrando nel nostro interesse nutrirci, noi non mangeremmo. Tant'è vero che alcuni fanno lo sciopero della fame, quando realizzano che il loro star male li porta a trarre più vantaggio dello star bene. A volte l'interesse è subdolo, si nasconde dietro a una parvenza di altruismo. Vi sono persone che si consacrano ad un servizio per sentirsi utili, per dominare in qualche modo le situazioni e l'affetto altrui. Potrei così moltiplicare gli esempi, per dimostrare che il movente di ogni azione, più o meno cosciente, sia l'utilità, il vantaggio, l'interesse. Nel campo spirituale la situazione non cambia, perché Gesù riconosce il principio del profitto. Molte volte, riferendosi alla salvezza, egli afferma: e che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Marco 8,36. Gesù pone la più grande decisione nella vita dell'uomo, sul piano dell'interesse, e, nonostante gli istinti dell'uomo siano corrotti, se ne serve per condurlo a lui. Quindi, il nostro Maestro presenta la salvezza sul piano di un calcolo, ritenendo stolto colui che non agisce per convenienza. Vi sono persone che si sentono vigliacche perché scelgono il paradiso per non finire all'inferno, ma in fondo è quello che il Salvatore ci invita a fare, non trovando un'altra motivazione che ci spinga. E soprattutto nelle parabole del tesoro nascosto e della perla di gran valore, che comprendiamo come Gesù inviti chiunque ad agire per tornaconto. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha, e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Marco 13, 44-45. Non vi è dubbio che in queste due parabole Gesù metta in evidenza l'accortezza nel condurre bene i propri affari. Nessuno lascia un bene, infatti, se non in vista di uno migliore. Spesso la vita cristiana è vista, forse per colpa di chi la presenta, solo come un'esistenza di privazioni, di rinunce. Questo significa distorcere il principio divino dell'interesse. Gesù non ci invita ad essere poveri, né proibisce di farci dei tesori, ma ordina: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Se il cristiano non cerca, secondo i parametri della ragionevolezza umana, di diventare ricco in questo mondo, non è di certo perché egli gradisca la povertà, l'indigenza, cosa che non piace a nessuno, salvo che questa non procuri qualcosa di meglio. Egli infatti agisce soltanto per il proprio interesse, perché desidera avere un tesoro migliore e duraturo. La persona che pensi di diventare cristiana senza fare calcoli, il cristiano che ritenga di agire senza alcun interesse, è un bonzo, non è realista. Egli in un angelo, oppure è un bugiardo. Quando Pietro domandò a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» Gesù non si scandalizzò di questa richiesta interessata, ma si preoccupò di rispondere a tono: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi, che mi avete seguito, sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto, ed erediterà la vita eterna». Matteo 19:27-29. E quel ne riceverà 100 volte tanto, che, se non si è motivati da un amore puro, diventa una ragione fondamentale per servire il Signore. Chi non sia spinto, o chi non voglia avere questa motivazione, elide una parte importante della sua persona, disprezzando tutte le promesse di vantaggio che Dio offre per incoraggiare e sostenere i suoi figli. Perché perdonare? Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. C. È sempre interesse a perdonare, e non solo celeste. Come enunciò qualcuno: «Non c'è, è il lavoro più faticoso e più logorante dell'odiare. L'odio lavora senza sosta, giorno e notte, sgretolando anima e cervello. Bisogna essere molto sciocchi per nutrire odio, perché perdere la propria vita, rinunciare alla propria volontà. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Scambiare ciò che è terreno e passeggero per il celeste ed eterno mi sembra una decisione normale e sensata per chi desideri fare dei buoni affari. La vita è dunque tutto un calcolo? Vi sono però calcoli illiciti che Gesù riprende: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Giovanni 6:26. Vi sono invece calcoli illiciti che ci sono proposti da Dio, essendo da Lui approvati. Il Dio dei cristiani si muove sempre sul piano del guadagno, dell'interesse, e si adira con chi non procede in questo modo. Nella parabola dei talenti, vi era un servitore che riteneva il padrone un uomo duro, l'aveva giudicato come uno che mietesse dove non aveva seminato e raccogliesse dove non aveva sparso. Gesù non rimprovera il servo per questa valutazione sbagliata, ma qualsiasi opinione il servo avesse avuto del suo signore, egli doveva comunque far fruttare il talento ricevuto. Proprio per questa sua inoperosità il servo fu condannato severamente dal suo signore. Il Dio dei cristiani sa fare i veri interessi. Per questo egli lascia le 99 pecore al sicuro per cercare quella che si era smarrita. Essa vale per lui più di tutto l'oro del mondo. Egli ha anche donato il suo unico figlio per la salvezza di chiunque crede, affinché potesse adottare come suoi figli innumerevoli persone. Un vero figlio di Dio deve assomigliargli. 2. Servo Dio perché lo amo. L'apostolo Giovanni afferma: «Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo». 1 Giovanni 4:19. Secondo la scrittura, l'amore dell'uomo verso Dio non è spontaneo, ma di riflesso. Diventando cristiana, una persona si rende conto che la sua ricerca del Creatore altro non era oltre il risultato dell'opera di Dio in lui, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, o Yahweh. Salmo 27:8. Il cristiano comprende sempre più l'amore di Dio. Conquistato da questo, egli dirà con Paolo, l'amore ci costringe. Qualcun troverà strano che, nel motivare le ragioni per le quali si serva Dio, l'amore risulti in secondo piano, ma questa è una realtà, prima di tutto perché non si può amare una persona, non conoscendola. La conversione contiene sì un atto d'amore, ma esso è di riflesso simile all'amore dei fidanzati, se confrontato con l'amore di un marito e una moglie dopo 20 o 30 anni di matrimonio. Inoltre, come abbiamo riflettuto, una delle ragioni per le quali si sceglie il paradiso è perché non si vuole andare all'inferno, e non può essere diversamente, dal momento che nessuna persona può agire per amore non avendolo. Così, l'amore di riflesso della conversione è ancora un amore interessato. Occorrono molti anni di vita cristiana per imparare ad amare Dio senza interesse. Anche Pietro amava Cristo quando era un discepolo, ma come abbiamo considerato con interesse. Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Solo più tardi, quando tradì il suo maestro rendendosi conto della propria natura malvagia e corrotta, e capendo che nonostante questa Gesù era morto per lui, egli poté rispondere al suo maestro che gli chiedeva se lo amasse. Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Amare Dio disinteressatamente rimane uno degli obiettivi più difficili per il cristiano. Forse è per questo che molti credenti prima o poi ritornano alla vita di prima gettando la spugna. Comprendi di servire Dio disinteressatamente quando, crollando tutto intorno a te, venendo meno certi affetti, non costituendo più alcun uomo, un appoggio sicuro e valido per te, dando tutto quello che hai e non vedendo alla fine alcun risultato, nonostante tutto, tu rimani fedele alla chiamata di Dio. Cosa fai qui? Chiese Dio a Elia che era fuggito, per salvarsi la vita. Mi hai servito per amore o per interesse? Mi hai servito perché nessuno poteva farti del male, o sei disposto a testimoniare di me, anche a costo della vita? Cosa fai lì? Chiede Dio oggi a molti di coloro che lo servono. Mi servi per denaro, per gloria, per onore, per realizzarti, per vantaggio, o è un amore disinteressato che ti sprona a lavorare per me? È una domanda a cui ogni cristiano e servitore di Dio, prima o poi, deve rispondere. Scrive Oswald Chambers: se l'amore umano non trasporta colui che ama al di là dei suoi limiti, non è vero amore. Se l'amore è sempre discreto, sempre prudente, sempre ragionevole nel calcolare i pro e i contro, se non va mai oltre se stesso, non è affatto amore. Potrà essere affetto, potrà essere calore di sentimenti, ma non ha la particolare natura dell'amore vero. Mi sono mai sentito spinto a fare qualche cosa per il Signore, non per dovere, né per utilità, né per nessun'altra ragione se non l'amore che ho per Lui. E una domanda questa che prima o poi ha una risposta. Perché colui che scruta i cuori darà al credente l'opportunità di dimostrarlo? 3. Servo Dio perché amo il prossimo. Non vi è dubbio che la forza che spinse Paolo a servire Dio fosse l'amore per Gesù Cristo. Ma l'altra motivazione, costituente il binario sul quale correva una vita al suo servizio, era il bene del prossimo. Egli scriveva a Timoteo, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. 2 Timoteo 2:8-10. Prima o poi arriva il momento dello scoraggiamento causa il prossimo tempo, in cui ti poni tante domande, e, nonostante il tuo amore per Dio, sei tentato di lasciare il tuo servizio. Ma il grido dei perduti deve essere più forte del tuo scoraggiamento. Paolo sopportava ogni cosa per amore di coloro che si sarebbero salvati. Questa motivazione per continuare a servire Dio non è certamente inferiore all'amore per Gesù Cristo. Secondo la scrittura non esiste amore per Dio che non si rivolga anche verso il prossimo. Anzi, essa pone l'enfasi sul fatto che, non amando il prossimo, non si ama Dio. Paolo amava svisceratamente anche i credenti. Fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo a motivo della vostra fede pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. 1 Tessalonicesi 3, 7. Il servizio di Paolo, pieno di tribolazioni e di sofferenze, veniva lenito dalla gioia, derivata dal sapere che i credenti rimanevano fermi nella fede. È vero che alcuni avevano abbandonato la fede e il servizio di Dio, ma questi episodi non erano motivi di scoraggiamento, né impedivano a Paolo di camminare nell'allegrezza dello Spirito Santo. Egli era talmente premuroso che poteva dire: «Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria». Efesini 3:13. Meraviglioso. Paolo aveva comunque e sempre una parola buona. In qualsiasi situazione si trovasse, vedeva il suo ministero fruttuoso per il prossimo. Paolo amava Gesù Cristo. L'amore per il prossimo era talmente forte, però, che egli, nonostante tutto, viveva con un certo disagio, al punto da scrivere: «Per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma, dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Quale contrasto divino! Chi agisce per amor del prossimo che vede impara ad agire per amore di Dio che non può vedere. Servo Dio, quindi, perché il prossimo ha bisogno di essere amato. Quest'amore per il prossimo è più forte dei miei interessi materiali ed emotivi. Servo Dio perché è l'unico modo per servire il prossimo in modo disinteressato ed efficace». Ogni duraturo lavoro sociale e spirituale ha avuto come fondamento un amore disinteressato per Dio. Sembra che il verbo servire sia, oggi, il più sconosciuto. Si parla molto di adorare, lodare, benedire, ascoltare, amare, evangelizzare, benedire, comunicare, socializzare. Ma l'enfasi di prestare un servizio, di essere soggetti, sembra fuori moda. Eppure Gesù, volendo riassumere lo scopo della sua venuta, affermò: «Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire». Servire Dio, quindi, deve essere lo scopo fondamentale della vita di un cristiano. Servite il Signore con letizia. Invita il salmista. Geremia sentenzia: «Maledetto colui che fa l'opera di Yahweh fiaccamente». Occorre volere la volontà di Dio. Volere la volontà di Dio, però, significa qualche cosa di più che accettarla senza protestare. Si tratta piuttosto di sceglierla con la ferma determinazione di adempierla. Noi cristiani abbiamo almeno due ragioni fondamentali per servire Dio: il tribunale di Cristo e le ricompense per chi regnerà con Cristo. Nel tribunale di Cristo sarà giudicato il nostro servizio per dare una ricompensa di grazia. Il criterio di giudizio sarà il grado di fedeltà. Saranno considerate le nostre opere secondo le possibilità date a ciascuno. Sarà valutato ciò che noi saremmo stati, ma anche ciò che noi saremmo potuti diventare, i nostri atti, ma anche le nostre omissioni. Sarà considerato l'operaio piuttosto che l'opera, il valore delle opere più che il loro numero, ciò che ci saremo sforzati di raggiungere, più di quel che sarà stato raggiunto. Dei nostri possessi conteranno solo quelli che avremo messo al suo servizio. Delle nostre disposizioni conterà solamente l'amore disinteressato. Delle nostre opere saranno considerate migliori quelle che ci sono costate di più. Dei nostri peccati egli non giudicherà di nuovo quelli da noi già precedentemente giudicati. Egli coprirà quelli che noi avremo confessato, ma anche svelerà ciò che avremo nascosto. In ogni cosa, egli terrà conto degli elementi interiori degli impulsi e dei motivi più segreti. Ciascuno riceverà la giusta retribuzione. Quelli che avranno servito fedelmente saranno grandi nel regno dei cieli. Alcuni perderanno la ricompensa, altri saranno disapprovati, altri ancora saranno coperti di vergogna. Il cielo non sarà piatto, non saremo tutti uguali, non brilleremo tutti nella stessa maniera. Non avremo tutti lo stesso premio, non conosceremo e non serviremo Dio tutti nello stesso modo. Non tutti occuperemo lo stesso posto. Tutto sarà proporzionato all'amore che avremo avuto per il nostro Dio. Gesù, infatti, ci ha promesso un regno, preparato fin dalla fondazione del mondo. Matteo 25:34. Coloro che regneranno riceveranno delle corone, che saranno riservate ai guerrieri vittoriosi, e sarà la corona della giustizia. 2 Timoteo 4:8. A quelli che corrono, come atleti, nello stadio, e sarà una corona incorruttibile. 1 Corinzi 9:25. Ai fedeli fino alla morte, e sarà la corona della vita. Apocalisse 2:10, Giacomo 1:12. Agli operai disinteressati, e sarà la corona d'onore. 1 Tessalonicesi 2:19, Filippesi 4:1. Ai modelli del gregge, e sarà la corona della gloria. 1 Pietro 5:1-4. Gesù disse: Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Luca mezzogiorno 37. Qualcuno ha detto che questa promessa è la promessa più grande della Bibbia. Gesù Cristo servirà coloro che lo avranno servito. La mia preghiera è che tutti i figli di Dio possano ricevere una piena remunerazione. 1 Giovanni 8. Perché servire Dio? È una domanda che, davanti a tale promessa, non ha senso e muore sulle labbra. 4. Servo Dio per lasciare un'eredità duratura. Perché queste riflessioni non svaniscano nella teoria, consideriamo un momento della vita di due uomini che hanno vissuto costantemente al servizio di Dio nella predicazione del Vangelo, D.L. Moody e Jan Hus. In questa occasione desidero però considerare non come essi abbiano vissuto, ma il momento più difficile nella vita di un essere umano, la loro morte. D.L. Moody nacque il 5 febbraio 1837 e morì il 22 dicembre 1899. Così testimonia suo genero. Per 44 anni era stato partecipe della vita divina, e la transizione dal visto al non visto, dalla sfera temporale a quella eterna, non segnò interruzione nella sua vita. In altri regni egli continua a servire lo stesso padrone, la cui causa aveva amato con devozione e aveva servito con instancabile energia. Il suo unico scopo nella vita terrena era stato di fare la volontà di Dio. Fino a poche ore prima, Moody era convinto di migliorare, per cui l'appello finale arrivò inaspettatamente. Ciò che segue, quindi, non è la recita di uno che si preparava a morire. Nel cuore della notte, suo figlio udì improvvisamente dire con parole lente e misurate: «La terra si allontana. Il cielo si apre davanti a me». Il primo impulso del figlio fu di tentare di svegliarlo da quello che pensava fosse un sogno. «No, non è un sogno, Will», disse Moody. Bello, è come essere in estasi. Se questa è la morte, è dolce. Qui non cava, è nessuna valle. Dio mi chiama e io debbo andare. Poi continuò: Sono sempre stato un uomo ambizioso. Ambizioso, ma non di lasciarvi ricchezze o proprietà, ma lasciarvi una quantità di lavoro da fare. Tu continuerai l'opera della scuola di Mount Hermon. Paul si occuperà della scuola quando sarà grande. Fit si occuperà dell'istituto e Andres, suo nipote, ti aiuterà in tutti i particolari degli affari. Quindi parve che vedesse oltre il velo perché esclamò: Questo è il mio trionfo. Questo è il giorno della mia incoronazione, l'ho atteso per anni. Quindi il suo viso si illuminò ed egli disse in gioiosa estasi: Dwight, Irene, vedo i bambini, riferendosi ai suoi nipotini che erano morti l'anno precedente. Poi, Accorgendosi che stava perdendo conoscenza, disse: «Porgete i miei saluti a tutti». Rivolgendosi alla moglie, aggiunse: «Mamma, sei stata una buona moglie per me». Con ciò perdette conoscenza. Dopo mezz'ora riprese conoscenza e, debolmente, pronunciò queste parole: «Nessun dolore. Nessuna valle. Se questa è la morte, non è niente male. È dolce». Poco più tardi, sollevandosi improvvisamente su un gomito, esclamò: «Cosa state facendo tutti qui?» Dopo che sua moglie gli spiegò che non era stato molto bene, Moody disse: «Questo? Strano. Sono stato oltre le porte della morte, proprio davanti ai cancelli del cielo, e sono ritornato qui. È molto strano». Poi disse di nuovo: «Questo è il giorno della mia incoronazione e glorioso». In seguito si alzò dal letto, ma un secondo collasso lo obbligò di ritornare a letto. Verso mezzogiorno andò in coma per risvegliarsi alla presenza di colui che aveva amato e servito tanto a lungo e fedelmente. D.L. Moody fu sepolto come era morto, da vincitore. Jan Hus nacque in un'umile famiglia in Boemia, intorno al 1372. Accusato ingiustamente, fu condannato al rogo. Ecco la descrizione storica degli ultimi momenti della sua vita, fatta dal suo segretario e compagno del suo ultimo viaggio. Era il 6 luglio 1415. Jan Hus veniva portato al supplizio per essere arso vivo. Gli aguzzini accesero prontamente il rogo. Il maestro prese a cantare a voce spiegata, dapprima il canto Cristo: «Tu figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi», poi l'inno Cristo: «Tu figlio del Dio vivente, abbi pietà di meno», ed infine l'inno «Tu che nascesti dalla Vergine Maria». Ma come egli cominciò a cantare il terzo inno, una folata di vento gli coperse il viso di fiamme. E così, pregando nell'intimo, muovendo appena le labbra e scuotendo il capo, spirò nel Signore. Prima di morire, mentre pregava in silenzio, sembrò balbettare giusto per il tempo sufficiente a recitare due o al massimo tre volte il Padre nostro. Come morirono questi due uomini di Dio deve essere, per noi, motivo di riflessione. Certamente perché egli è degno di essere amato e servito, perché morendo in croce Gesù ha riconciliato ogni uomo a Dio. Per cui Dio non imputa più i peccati alla razza umana. Perché così facendo, la vita è fruttuosa, abbondante, ha senso, un obiettivo. Ma si serve Dio anche perché al momento del passaggio da questa vita all'altra, al momento di tirare le somme, quindi coloro che lo hanno servito fedelmente e con amore, non sono presi alla sprovvista, non sono disperati come coloro che non hanno speranza, ma sanno che li aspetta una corona. Il salto più buio della vita viene illuminato dalla luce celeste. Il passo più insicuro trova in Gesù Cristo il suo piede d'appoggio per compiere con certezza l'ultimo passo. Il momento più triste trova in Dio il massimo della felicità. Durante la sua esistenza un uomo può anche ingannare se stesso e il prossimo per trarne vantaggio, ma al momento della morte non vi è nessuna ragione per mentire e il momento meno opportuno per recitare. Chi ha vissuto senza una, anche minima, fede, pensa che siano gli ultimi atti della sua esistenza. Dopo la morte tutto è finito. Chi ha avuto fede in qualche vago Dio spera di incontrarlo favorevole. Chi ha vissuto con una fede in Gesù Cristo sa che andrà alla presenza di Dio certo di essere accolto con amore per l'eternità. Questa differenza di atteggiamento di fronte alla morte è dovuta a come si è vissuta la vita. Servire Dio è certamente una benedizione in questa vita, ma nella sua misericordia Dio ci concede anche di godere della sua presenza e potenza nella morte. Non solo. Chi serve Dio lascia un'eredità inestimabile. Leggiamo nella lettera agli Ebrei: «Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa egli ricevette la testimonianza che era giusto. Quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, parla ancora». Ebrei 11:5. coloro che hanno vissuto alla presenza di Dio e lo hanno servito fedelmente, non sono solo di benedizione durante la vita e nel momento della morte, ma anche quando la loro presenza fisica non cacquate è più. Essi non lasciano un'impronta nella storia destinata ad essere cancellata. Alla prima mareggiata di pensiero, tracciano un solco indelebile di spartizione tra il bene e il male, tra una vita gioiosa e una fallimentare, tra cose vacue ed eterne. La morte di coloro che hanno servito Dio è talmente importante che Paolo scrisse: «Ricordatevi dei vostri conduttori i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede». Ebrei 13, 7. La parola di Dio ci dà delle certezze per quanto riguarda le promesse di Gesù Cristo. Nessun figlio di Dio, compresi coloro che sono in autorità, può essere però sicuro di rimanere fedele fino alla fine e terminare come Davide la sua corsa verso il premio dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione. Atti 13 e 36. Essere di esempio, al punto che altri desiderino imitare la nostra fede, dovrebbe essere una santa ambizione dimorante nel profondo del nostro cuore. Come essere d'esempio nella morte? Come lasciare un'eredità di fede? Non vi sono segreti né certezze in merito, ma una vita vissuta nel giusto atteggiamento al servizio di Dio è una buona garanzia. Come è questo giusto atteggiamento al servizio di Dio? Esso è espresso in modo mirabile e conciso nel Salmo 44 al versetto 22. Sì, per causa tua noi siamo messi a morte ogni giorno, siamo considerati come pecore da macello. Chi serve Dio sperimenta ogni giorno una morte, morte a se stessi, Matteo 16 e 25, alle proprie ambizioni, Filippesi 3.8, ai propri interessi, Filippesi 2.4, agli applausi dell'opinione pubblica, Galati 1 e 10, agli elementi del mondo. Colossesi 2 e 20. Una simile morte giornaliera ci rende idonei ad affrontare l'ultima morte, per entrare, e per sempre, nella pienezza della vita dell'eternità. A questo punto la domanda è: perché non servire Dio? Non vi è risposta più imbarazzante. Giugno 1997. Ellero.